ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Quarta puntata. Il 15 agosto del 1901 Lello scrisse sul suo quaderno che Alfonsa aveva partorito una bambina. Il nome romano di Velia che le fu imposto era un piccolo passo in più per accedere al mondo, il mondo dei gentili che sembrava accoglierli tutti a braccia aperte, nell'Italia nuova che cancellava come assurde e sorpassate le discriminazioni di secoli. Per lei e per Enrico, che ancora non garantiva notti tranquille, Alfonsa accettò infine che Finimola fungesse da balia, asciutta, perché senza figli e perché le teorie moderne di Lello, c'era chi ne rideva, prescrivevano che il latte fosse della madre. Per quei figli già nati e per gli altri che sarebbero venuti, Lello pensò una nuova casa e Angelo, suo fratello, lo aiutò a farne un palazzo e dentro la casa di tutto, persino una palestra, mens sana in corpore sano. I suoi eredi non avrebbero sofferto né debolezze né pecche. Alfonsa provvedeva alle filastrocche da imparare a memoria, alle fiabe, al nutrimento più adatto per la loro età. Solerte li accompagnava in lunghe passeggiate e in quelle ore le polacchine alla moda che Ermelinda le consigliava rimanevano nell'armadio, troppo frivole e scomode per la madre che lei intendeva essere. In sostituzione e quasi per gioco cominciò ad operare vecchie scarpe del marito, non visibili peraltro sotto le lunghe gonne e più adatte ai suoi piedi infelici e troppo grandi. Per le passeggiate, rare per i molti impegni, Lello si concedeva invece la carrozza ed erano quasi un viaggio. Villa Borghese, il Gianicolo, le costruzioni nuove che andavano sorgendo nelle tenute al di là di Porta San Pancrazio, rimirando con amarezza intatta i beni che suo padre ed i fratelli avevano perduto in speculazioni sciagurate, Lello spiegava ai figli animali e insetti della campagna. Lì, di fronte ai resti di quella che era stata una fortuna, per la prima volta i bambini si incantarono alle lucciole. Dei progressi della famiglia e di quelle passeggiate Alfonsa riferiva poi con precisione nelle lettere a suo padre Pellegrino, che tutti i figli aveva allevato alla luce del motto «Zusammen und zu Fuß», «insieme e a piedi». Anche Ermelinda ed Angelo, suo marito, praticavano alacremente il podismo, anzi addirittura l'alpinismo. Protetti da scialli e cappelli, armati di binocoli in avorio ed alpenstock istoriati, si inerpicavano su vette impervie al seguito della Real Coppia, nella cui cerchia erano penetrati grazie anche a quell'inconsueta abilità. Alfonsa frequentava gli ambienti di corte solo per le sue attività di volontaria, una volta alla settimana, nell'ambulatorio in cui Lello operava. I suoi modi bruschi, i gesti competenti, gli abiti sobri stupivano per l'abitudine che infermieri e assistiti avevano a trine e superficialità. Anche Lello se ne intimidiva lievemente e l'ammirava per come era. Nel 1903, per l'altra femmina che nacque, si scelse, chissà perché, il nome biblico di Lea. Ed anche quell'evento Lello scarnamente annotò nel suo quaderno. Ma nel 1904, quando Velia morì, la sconfitta fu grande e non sapeva come scriverla. Così si affidò alle radici, cercò parole antiche che medicassero la ferita. Le ore che impiegò a vergare in ebraico quelle righe furono molte e di conforto, prove su prove di una mano incerta per desuetudine e sofferenza. Il testo definitivo recitava: il 18 Iar 5664 se ne andò dal mondo la mia figlia Velia. Voglia l'Eterno che la sua morte sia di espiazione per me, per mia moglie, per tutti i membri della mia famiglia. E dica ora l'Eterno all'angelo della morte: De, trattieni la tua mano. Alfonsa non fu vista piangere, non cercò conforti né consolazione. Indossò il lutto, non se lo tolse mai più. Neanche quando partorì di nuovo, Enzo nel 1905 e nel 1907 Emilio. Solo per convinzioni di igiene Lello impose loro la circoncisione. Per ragioni sociali invece festeggiò e invitò. Alfonso li tirò su con pochi sorrisi e ancor meno parole, e lui ne accettò la laconicità, perché era decisa fino alla testardaggine e perché le sue risoluzioni si rivelavano spesso alla resa dei conti giuste. Si dicevano dei progressi dei figli, della loro educazione, dei provvedimenti da prendere per loro. Delle paure non parlavano, al più se le scambiavano negli sguardi. E tutto quel nero per lei era già una difesa, un modo di cancellarsi, di oscurarsi agli sguardi per delegare agli altri la vita che lei non avrebbe vissuta, la luce piena della ribalta e gli applausi che dovevano venire. Enrico, Enzo, Emilio, i tre figli maschi tutti con l'iniziale E, come una dinastia, un'unica iniziale per tutti, perché crescessero uniti, per l'orgoglio di casata di Lello o per la riluttanza di Alfonso a cambiare le cifre sulla biancheria trasmessa dall'uno all'altro. Però Emilio, il più piccolo, da sempre lo chiamarono Mimmo, riconoscendogli o imponendogli un tratto di diversità. Viaggi in treno, da Berna a Mosca, a Kiev, a Parigi, giorni grigi e notti fumose con la bambina al collo, nella valigia insieme alla stampa clandestina, fasce e vestine, incerate, spille da balia. Xenia cerca di tenere insieme i pezzi della vita, sua figlia e la politica, il dolore e la lotta. La morte di Lev ancora non riesce a pensarla. Poter andare sulla sua tomba l'aiuterebbe forse a capire fino in fondo, ad assorbire, a far posto dentro di sé a quell'assenza. Ma non si può. Anche sepolto sotto falso nome resta un cospiratore. Nessuno può portargli fiori perché riconoscerlo sarebbe perdersi. Il terrorista Shiftar è morto. Xenia, la compagna Irina che l'Ocrana, malgrado molte indagini, non è riuscita a catturare, deve dimenticare di averlo conosciuto. E tutto si dimentica davvero. Xenia già non sa più il suo odore, la piega tenera della guancia, i baci. Ullata dal dondolio del treno, la bimba le dorme accanto sul sedile, adagiata su un panno bianco che la ripari dalla sporcizia. Xenia apre un libro con precauzione. Fra le pagine un piccolo fiore secco, l'ultimo regalo di Lev, fragile e prezioso, colto da un muro della fortezza quando già il patibolo era stato drizzato. Xenia vorrebbe uscire di scena e non può. Sua figlia e le ultime volontà di Lev la inchiodano a una vita che neanche può vivere a suo modo. Non può abbandonarla nel mondo da sola, dunque deve risparmiarsi i rischi eccessivi, cioè quasi tutto, tutto ciò che fino a ieri ha dato sapore e senso alla sua esistenza. Con le mani strette fino a farsi male, Xenia prega, cercando risposte che non riesce a trovare. Perché, Dio mio, proprio Lev? Perché togliere proprio lui, così giusto e buono, da questo mondo in cui il male ha già tanto potere? Da anni Xenia non entra in una chiesa se non per copertura cospirativa. Il suo Dio è ormai tutto interno. Le liturgie non le interessano più, però la sua fede è forte. Anche a Lev delle sue radici ebraiche non importava, ma la religiosità era dentro di lui una leva per agire, per affrontare il niente della dissoluzione, della fine. Nel fervore della spiritualità, solo in quello a Xenia sembra a tratti di ritrovarlo. Le loro mani si toccano al di qua e al di là del vuoto, dell'assenza. Rassegna sa che la domanda è senza risposta, ma non può che continuare a porsela. Perché proprio lui, mio Dio? E mentre chiede, pensa a un Dio senza forma né immagine, il non rappresentabile Dio biblico della severità e della giustizia. È al Dio di Israele che Lefa appartiene, non così diverso dal suo, ma neanche uguale. I tanti compagni ebrei sono per Xenia un conforto, la confermano nella convinzione di percorrere la strada giusta, la strada di Lev. E come conciliarci con il tuo comandamento, mio Dio? Anche su questo treno io viaggio perché devo uccidere. Le carte che porto incitano alla rivolta e al sangue. Le istruzioni che ho mandato a memoria parlano di agguati, dinamite, attentati. Non abbandonarmi per questo, mio Dio. Non lasciarmi vuota di te. La frontiera, i controlli, le guardie. Xenia mostra i suoi documenti falsi. Si prende in collo la bambina per farsi madre e rispettabile. La croce ortodossa che le brilla sul petto è un attestato di decoro ai loro occhi, ma è vera. Xenia se la passa fra le dita per trarne conforto, la accarezza. Sveglia, anche sua figlia è attratta dalla croce luccicante. Ma sotto le fasce, là dove nessuno può vederla, perché anche questo sarebbe un rischio, Xenia le ha puntato una stella di David, minuscola, perché anche suo padre si è vicino a lei, in ogni istante. Dopo i controlli, Xenia, abbandonata sullo schienale, senza forze, la bimba piange, sua madre le canta una canzone che ha inventato per lei, «Stella, mia stella». Dietro la fronte stanca, sempre lo stesso pensiero. Perché proprio Lev, mio Dio? Per la festa Ermelinda non si risparmiò. Per ciascuno una maschera di carta colorata da fiore, per ciascuno un verso da recitare o una canzone. Per Mimmo, poco saldo ancora nel camminare, soltanto un giro di petali da agganciare come una collana intorno al collo da uccellino. E tutti si intenerivano di lui, così piccolo, e dell'attenzione che metteva nel non sciupare la maschera. L'eccitazione con i preparativi cresceva. I bambini ad ogni momento ripetevano la parte che era stata loro assegnata, a voce bassa, per non togliere la sorpresa agli adulti che li avrebbero ascoltati. Ancora carta colorata per addobbare la casa. Finimola e Dalinda in cucina a preparare dolci e rinfreschi in quantità per i molti bambini e i molti adulti che insieme avrebbero celebrato Purim. Con un lenzuolo per sipario ed Ermelinda che al pianoforte accompagnava quadri viventi e filastrocche, la recita fu un successo. Ciascuno ebbe il suo applauso e le risate per travestimenti e battute furono sincere. Poi il sipario calò. Gli adulti si ritirarono e i bambini rimasero padroni del campo, liberi per legge di fare quel che volevano. Ma c'erano continue sortite. Enrico si fece dare da suo padre un sigaro e con gravità lo accese in sua presenza. Lea si impadronì di una sottana di sua madre e si lanciò in un ballo indiavolato, mentre Enzo, con gli occhiali dello zio Angelo sul naso che gli davano il mal di mare, si dava arie di importanza fingendosi avvocato. Una sarabanda e gli adulti permettevano ogni licenza, ogni usurpazione di ruolo, perché così vuole la tradizione di Purim. Appena frastornato dal rumore, Mimmo studiava le stramberie degli altri tenendosene a distanza, per non essere travolto dalle loro irruenze, per non rovinare la maschera. E intanto anche gli adulti facevano qualche strappo alla regola, minore. Lello raccontò storie piccanti. Dalinda in cucina si attaccò alla bottiglia. Angelo guidò in un ballo una cugina giovanissima. Alfonsa faceva la padrona di casa, uguale a se stessa negli abiti e negli atteggiamenti. Non ballava, offriva i buoni cibi che erano stati preparati, lei senza abusarne. Trovandola noiosa, Ermelinda per affetto la costrinse a cambiarsi, a mascherarsi anche lei. La trascinò in un'altra stanza, lontano da tutti, e la aiutò a vestirsi da uomo. Davanti allo specchio, evitando di guardare, Alfonsa si toglie con imbarazzo i propri abiti e con difficoltà si infila i calzoni, la camicia maschile, il colletto duro. Ma quando Ermelinda le nasconde i capelli sotto una tuba, Alfonso si scopre un'aria sbarazzina, un fascino strano e mai intuito. Il panciotto, l'orologio nel taschino, la giubba. Ora Alfonso si diverte e collabora. Ride alle battute della sorella e ne aggiunge di sue. Con 3 strisce di carta si fa una fusciacca, bianca, rossa e verde, come fosse di sindaco o assessore. Alfonso con sussiego offre il braccio a Ermelinda, paludata in uno scialle sontuoso e orientaleggiante. Insieme incedono verso i saloni per far ridere anche gli altri del loro divertimento. Con gli adulti molte battute. Alfonso è tutta rossa per l'allegria e la stravaganza e vuol far ridere anche i bambini. Non la vedono subito, presi come sono da un girotondo rumoroso, con Mimmo seduto al centro a far da perno e a battere il tempo sbattendo l'uno sull'altro 2 coperchi. Alfonso si fa avanti, aggiustandosi con affettazione la falda del cappello. Dal centro del cerchio Mimmo la vede avanzare, senza fiato non dà più il tempo e il girotondo si arresta e poi si rompe per le risate. Alfonso ha sostituito i suoi occhiali con un monocolo. Lo inserisce nell'orbita e la luce crea riflessi che la illuminano. Ma lei non vede quasi niente, solo una nebbia di bambini e di grida. Finché il pianto di Mimmo la raggiunse come una frustata. Non se ne chiese il perché. Lo prese in braccio e lo portò via con sé, affrettandosi a tornare a Alfonso. Xenia controllò allo specchio la pettinatura e il colletto. Si passò sul viso una mano come a spianare le rughe che cominciavano a segnarlo. Andando verso la porta per aprirla, la tensione già ne aveva incise di nuove. I 5 che entrarono, 2 donne e 3 uomini, avevano facce scure e Xenia non ebbe bisogno di chiedere per sapere. Chinò la testa e avrebbe preferito non sentire. Le dissero del processo al tribunale rivoluzionario, dei confronti, delle prove. Nessuno aveva creduto prima e nessuno poteva più dubitare ormai. Yevno Azev, il capo rispettato se non amato dell'unità combattente, era un traditore e per il suo tradimento era morto Lev. Non per fatalità dunque, ma per la cattiveria degli uomini, per paura e per denaro. Xenia non aveva parole, anche gli altri faticavano a trovarne. Finalmente andarono via tutti meno Baris. Il nuovo capo assoluto adesso era lui, il compagno che Lev aveva salvato dalla fortezza di Sebastopoli. Savinkov con delicatezza ed affetto le prese le mani. Si guardarono negli occhi cercando un conforto impossibile. Si riscaldarono con un tè forte. Poi la bambina entrò e per lei furono costretti a sorridere. La piccola saltò in braccio a Baris e cominciò a tirargli i baffi. Lui, come vendetta giocosa, prese a lanciarla in alto, riprendendola ogni volta con un abbraccio. «Che paura!» esagerava Xeniuska ad ogni vuoto d'aria. «Niente paura, ci sono io», la rassicurava lui. E la bimba era pronta a un nuovo lancio. Con molte proteste, Xeniuska più tardi fu portata a dormire. Prima di andar via, Savinkov volle vederla ancora e lasciare una carezza sulla sua fronte acquietata, perché si sentiva responsabile di lei e non avrebbe voluto doverla lasciare. Quando usciva di casa al mattino, Lello volentieri salutava i figli con un bacio, con un abbraccio, un'espansività non condivisa da Alfonso. Così lui, per consentirsela, la copriva con un «non mi fate perdere tempo», che toglieva importanza al gesto e quasi lo cancellava. Della sua allegria, dell'ironia dolce con la quale gli piaceva affrontare il mondo, in casa restavano poche tracce, all'apparenza inutilizzate. Il perno per tutti era lei, Alfonso. Ai suoi figli Alfonso raccontò fiabe soltanto da piccolissimi, preferendo poi che pezzi di storia appena semplificati o i poemi che hanno fatto grande la letteratura italiana si insediassero precocemente nella loro memoria, un nutrimento che non doveva abbandonarli mai più. Ermelinda, che abitava nello stesso casamento e anche per questo seguiva da presso ogni iniziativa concernente i nipoti, per molte cose era d'accordo con la sorella. Rassegnata via via, con il passar degli anni, a non avere un figlio proprio a cui dedicarsi, avrebbe voluto magari qualche femminilità in più per Lea. Ma sui ragazzi il suo progetto coincideva in larga parte con quello che Alfonso aveva in mente. Perciò anche lei utilizzava le fiabe soltanto come premio o come rimedio estremo. Quando per ospiti o malattia era indispensabile tenerli quieti. Raccontava a voce così bassa che i bambini, per non perdere le sue parole, dovevano impegnarsi al silenzio assoluto. La fiaba della perfida principessa che chiede all'amante di portarle impegno il cuore di sua madre si incise dunque nei bambini con tutto il rilievo dell'eccezionalità. Faceva Ermelinda con il dito sulle labbra. E il silenzio durava oltre il finale, quando lui, correndo, con il cuore palpitante in mano, inciampava e la voce di sua madre, non spenta dalla morte, diceva: «Sta attento, figlio mio, non farti male». Invece Dalinda e Finimola, le serve che preparavano i cibi sani e troppo uguali, che lavavano via le macchie d'inchiostro dai loro abiti fin da piccolissimi, malgrado la reverenza appena impaurita per la padrona, spesso mormoravano fra loro, scontente di rigidità e divieti. Dalinda insegnò a Lea come si lavora la farina. Finimola si lasciò andare a qualche carezza in più, a qualche merenda non del tutto spartana, ma al di là di piccoli gesti, raramente potevano spingersi. A volte una canzone o una favola, nelle poche occasioni in cui Alfonso era assente dai loro pomeriggi. Fiabe iniziatiche di bambini sperduti nel bosco. Ed Enrico, dopo i brividi della paura, difendeva i genitori che li avevano abbandonati. Altrimenti, diceva, come avrebbero fatto i figli a dirsi padroni della propria vita? Fiabe di castelli e principi azzurri, che Lea ascoltava a bocca aperta per poi criticarle, severa verso l'insulsaggine delle donne e la generosità mal indirizzata dei maschi. Fiabe di viaggi meravigliosi che Enzo seguiva con passione, dondolandosi sul cavalluccio o fingendosi a bordo di una nave. Fiabe di giovani ardimentosi che infinocchiavano l'orco con tranelli di parole e a Mimmo brillavano gli occhi. Alfonso sapeva e lasciava correre. Non vista, verificava o faceva controllare da Ermelinda che i racconti non fossero troppo cruenti o comunque diseducativi. A Finimola, che per furbizia non era seconda a nessuno, quei controlli non sfuggivano di sicuro. Così riuscì per certe storie a non aver mai testimoni. Raccontava della sua famiglia, dei 7 fratelli venuti al mondo uno dopo l'altro perché suo padre beveva e la madre voleva ad ogni costo una femmina. Si chiamavano primo, secondo e così via. E quando era arrivata lei, il padre, che per le tante bocche da sfamare sempre più si consolava col vino, la chiamò Finimola e con la moglie non volle più dormire. Le fiabe si interruppero per sempre quando i bambini si accorsero, pur attraverso le lunghe gonne e i grembiuli informi, che a Finimola stava crescendo la pancia. Non furono negate loro le spiegazioni fisiologiche che Lello impartì con la consueta scientifica precisione. Ed Alfonso accolse l'occasione per illustrare una prescrizione tassativa di castità, un chiodo piantato nella testa dei suoi figli sul quale più e più volte poi sarebbe tornata a ribattere. Long floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes, and you sang. Sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am. Wait.